Bene, siamo con il dottor Borsari di Bologna per l'Arte, con la curatrice della rassegna che ci tiene compagnia e riscalda l'inverno bolognese non solo a Palazzo da Curzio, un grande artista. La rassegna prosegue con Augusto Maiani. E allora iniziamo proprio dal presidente dell'associazione. Buongiorno presidente, intanto. Buongiorno a lei, grazie per il vostro intervento, quindi, che ci fa molto piacere. Le seguiamo da sempre, a che edizione siamo arrivati? Questa è la 17ª edizione e l'11ª a Palazzo da Curzio. Siamo quasi maggiorenni, presidente. Quindi... Abbiamo già fatto 2 anni fa, abbiamo festeggiato i 20 anni dell'associazione e in quell'occasione mi hanno conferito la tourita d'argento. Beh, siamo arrivati quasi, al podio ci siamo, insomma, ecco, al podio ci siamo. Quali sono, intanto per il pubblico che magari si sta avvicinando a questa realtà, quali sono le linee espositive che si propone Bologna per l'Arte? Ma diciamo che l'Associazione Bologna per le Arti è nata principalmente per rivalutare e rivisitare la pittura bolognese dell'Ottocento, che molto spesso dimenticate. Io spesso dico che molti dei nostri pittori hanno avuto la sfortuna di vivere e lavorare a Bologna, tutto perché Bologna era solo Morandi e non si consideravano gli altri. Invece abbiamo degli artisti che a livello europeo sono stravisti, come De Maria, come Busi, come Bedini, come Protti, come Fabbi. Addirittura un Fabio Fabbi a New York è stato bandito per $178,000. Quindi un grande valore di talento anche nella Bologna dell'Ottocento, sottovalutata, fortunatamente abbiamo questa possibilità. Allora, cominciamo la nostra conversazione anche con la curatrice per l'esposizione che a breve sarà inaugurata. Sentite, la stanno allestendo anche, quindi siamo veramente qua in diretta sul luogo e nel cuore. Francesca Senigallia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Senigallia Francesca, storica dell'arte, appunto appassionata e studiosa dell'Otto del Novecento bolognese, tradizionale, quindi non avanguardie, che è molto diverso naturalmente, un mondo completamente diverso, e archivista di Stato. Quindi la mia particolarità è non solo appunto una storica dell'arte appunto tradizionale, ma anche di essere una studiosa legata alle fonti storico-artistiche, che sono la base, secondo me, della conoscenza vera di questi artisti. E tra questi, sicuramente, rispetto a quelli che diceva il presidente, Augusto Maiani è tra i più importanti, effettivamente. Allora iniziamo con un piccolo identikit di questo protagonista. Allora, è un artista che nasce nel 1867 e muore nel 1959, quindi attraversa quasi 90 anni, muore a 92 anni di vita, appunto, e attraversa un po' il periodo fine 800, inizi 900, che è un periodo ruggente, legato appunto agli stili molto importanti del simbolismo e del divisionismo nazionale. E questa è una grande novità di Maiani, perché Maiani, appunto, che è noto come illustratore, con lo pseudonimo Nasica, che si firmava appunto così, Nasica per il naso, esatto, così prominente, in realtà è un artista che ha attraversato appunto gli stili nazionali, quindi a livello pittorico è un artista importantissimo e completamente riscoperto. L'ultima mostra fatta sulla pittura di Augusto Maiani risale al 1960, quindi 61 anni, quest'anno appunto doveva essere il 60° l'anno scorso, ma abbiamo ritardato di un anno, ma va bene lo stesso, insomma. Per quanto riguarda questo suo attraversamento pittorico, quali saranno le opere in mostra per questa edizione di Bologna per le Arti? Allora, ce ne sono tantissime, perché sono una novantina, di cui molte inedite, le altre invece sono legate a prestiti pubblici. E questo sono molto contenta di condividerlo con voi, perché è un grande vanto dell'Associazione Bologna per le Arti, perché abbiamo ottenuto veramente 30 prestiti museali di opere che sono visibili solitamente al pubblico. Sono opere che solitamente, nonostante siano nei musei, infatti, sono sempre, sempre nei depositi, per questioni di spazio, perché tra l'altro sono opere di grandi dimensioni. In questi giorni arriverà un'opera con un ingombro di 4 metri, con un trasporto eccezionale, che si chiama Mentana. È un'opera che apre un po' Maiani alla tematica garibaldina, che lui sentiva moltissimo. È un'opera eccezionale che, appunto, questa è l'unica opera effettivamente in mostra che è nei musei vista dal pubblico, che può essere vista dal pubblico, ma in realtà le altre, soprattutto quelle del Mambo, sono nei depositi. Dal Mambo proviene un altro capolavoro che è Disoccupati, un'opera che appunto riguarda la tematica sociale, della questione sociale a cui appunto Maiani dedicò moltissimo, moltissimo tempo, anche quella nei depositi, e fino al 30 di gennaio potrà essere vista da tutti i visitatori, e quindi è molto importante, insomma. È un'occasione quindi da non perdere, anche perché queste opere sono a fulcro della produzione pittorica anche degli ultimi anni di Maiani, che si concentra su questa socialità, sulla questione contadina. E quale sarà il percorso espositivo, il carattere di questo percorso che strutturerà la mostra? Allora, il percorso è molto articolato, quindi preparatevi. Siamo stati molto didascalici, nel senso che appunto Maiani ha attraversato molte tematiche, quindi c'è la tematica garibaldina, la tematica della questione sociale, la tematica religiosa, che non è mai una religiosità esplicita, ma molto intima, che va verso, in realtà purtroppo, a un pessimismo assoluto, e quindi io mi scuso e lo dirò sempre, perché usciremo un po' da questa mostra con animo un po' pesante, perché c'è il capolavoro vero di Maiani, è L'ombra della croce, e questo è, insomma, voi lo vedrete, io ricorderete delle mie scuse, mi dispiace moltissimo, ma purtroppo sarà così. È un'opera eccezionale che viene da collezioni private, ma in realtà è stata donata alla Pinacoteca di Budrio, che presterà 17 opere, in mostra ci sono 17 opere della Pinacoteca di Budrio, ed è un'opera imponente, densa di significato, che riprende tutta la tematica dell'Olocausto. Quindi ho detto tutto. Certo, è un artista eterogeneo, è un artista che ha seguito diversi percorsi, in apertura di conversazione ha citato simbolismo e post-impressionismo, che nella nostra rubrica sono i temi dell'Ottocento più seguiti, più rincorsi su tutto il territorio nazionale e anche oltre confine. È sempre difficile, se pensiamo ai grandissimi di tutto ciò, Maiani con chi può dialogare? Beh, c'è un grande capolavoro che si chiama Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, che è al Museo del Novecento, tra l'altro nel piano terreno, dove tutti lo possono vedere. Questa è una cosa voluta, credo, dal Comune di Milano. L'opera è importantissima a livello internazionale. I Disoccupati del Mambo, cioè appunto di Augusto Maiani, può essere sicuramente paragonata a quell'opera a livello di importanza sociale, perché è un'opera che viene, io non lo sapevo prima di studiare Maiani, prima di approcciarmi a Maiani, è un'opera che viene riprodotta in moltissimi manuali di storia del periodo. E questo sicuramente è significativo per il nostro artista. Quindi Segantini, Pellizza da Volpedo, certo, e tutti i percorsi che hanno trovato in un artista anche caricaturista. Lui ha la sua caricatura, appunto, dal naso prominente, che è molto bella e molto particolare. In carriera da illustratore lavorava per riviste, per... Sì, per riviste molto importanti, ma la cosa interessante è vedere proprio le due anime dell'artista. Certo. Cioè, l'anima goliardica, no, del caricaturista, dell'illustratore, sempre comunque legato ai personaggi della Bologna del tempo. E allo stesso modo invece un'anima così densa del pittore, che appunto è Augusto Maiani, con cui lui si firma Augusto Maiani quando dipinge, lui si firma Nasica quando realizza delle opere grafiche. Quindi è proprio due anime completamente diverse, all'opposto, ma che allo stesso tempo hanno entrambe, che cosa così importante? L'idea. Questo è il motivo per cui noi abbiamo chiamato la mostra La potenza dell'idea, perché sia nella parte grafica che nella parte pittorica, oggetto di questa mostra, ricordiamo, lui ha sempre un contenuto così profondo, così importante, così articolato, che è appunto l'idea, che lui stesso definiva così, con questa parola, con la I maiuscola. Sì, infatti io seguo da sempre queste rassegne e ci tengo, io odio l'inverno e una delle poche realtà che mi consola è l'arrivo che aspetto sempre con grande curiosità. Allora, ovviamente, venendo dal mondo dello sport, se volessimo fare questo All-Star Game di artisti da voi riuniti, con Augusto Maiani abbiamo un po' il Michael Jordan della situazione, mi viene da pensare. Abbiamo una stella. Un bel paragone. Sì, diciamo che si eleva moltissimo quando il suo citato Jordan andava a canestro, faceva sempre 4-5 passi, poi si elevava. Maiani studiava molto le sue opere, eccetera, poi toccava, spiccava il volo per dare quella, come ha detto giustamente la dottoressa, il Cristo, i disoccupati, eccetera, toccano veramente qualcosa di non solo di visivo, ma anche di intimo. Emotivo, certo. Come potete sentire, siamo in diretta con l'allestimento che stanno costruendo gli operatori qua a Palazzo da Curzio. L'esposizione dura fino al 30 di gennaio. 30 di gennaio, che è il compleanno di Augusto Maiani. Quindi faremo anche una grande festa. Da un'altra dimensione ne sarà felice. Un giorno in più. Ok. È un destino. Io vi ringrazio per la collaborazione e per aver dato a Radio Città Fujiko la possibilità di parlare di questa pregevole mostra, ma anche di questo grande artista. Grazie, buon lavoro. Venite a vedere e convogliate anche altri a vedere, perché merita veramente.